Tutto ciò che c'è già, insomma, quindi è un po'. Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Ma tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Vorrei che i pidocchi abitassero la testa di Brando Hardy, giocare a Tomb Raider insieme a Finardi, uscire solo con la 50 e tornare tardi. Vorrei sapere la mia lingua meno di Biscardi, criticare sgorbi disegnati da Asgardi, DJ Jed a capo dell'allenarmi, sapere che Vilma se la fa con Barney, che di nascosto Redron e sa buffa di carni. Fermi, vorrei accendere la radio, sento intermi sugli annacci che mette cast mio. Vorrei stare a Music Awards, vincere un premio, Michael Jackson che mi dice Pep sei un genio. Vorrei che il mitico Leonardo DiCaprio facesse film solo quando Vasco è sobrio. Io vorrei che Backstreet Boys fossero gay, che le teenager ma sono casa dei. Casa dei. Casa dei. Casa dei. Tutto ciò che c'è già. C'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Si fa. Renderò possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è già. C'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Si fa. Renderò possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Vorrei che Naomi Campbell senza bikini facesse il filo a Ceccarini, che invece vuole fuggire con la Nannini nella discoteca dove spingono Masini. Cristina D'Avena faccia 12 bambini che fanno cacca che sta attacca ai pannolini. Poi la vede al bar che ci dà col Martini, si gozza con gli alcolici, duetta con i prodigi. Voglio stare calici come un prete perfetto, Marilyn Manson mi farà da chierichetto. Vorrei che la Marini fosse senza culetto, che mi mostrasse il suo don di petto. Aspetto che nasca Caparezza Junior, Martufello il massimo dello Junior, Shaquille O'Neal che fa l'amore mini minor. Casa dei dove sei? I want your freedom, baby. Freedom, freedom, tutto ciò che c'è già. C'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Si fa. Renderò possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è già. C'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Si fa. Renderò possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è già. C'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Si fa. Renderò possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è già. C'è già. Allora nei miei pezzi che si fa? Si fa. Renderò possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Altyazı